Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Primo appuntamento del mese di aprile con il mondo della scuola, ancora ben trovati da Mirko Cavallini studio e di Daici alla parte tecnica. Oggi incontriamo una persona nuova, perché è nuovo di poche settimane il suo incarico come presidente della FISM di Treviso, ha vinto le elezioni qualche settimana fa. Stefano Grando, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Due parole su di te per conoscerti, molto giovane, faccio una scheda. Certo, io ho 38 anni, sono di Treviso, sono un ingegnere che lavora in uno studio qua a Treviso, ho due bambini, Federica che è al nido e Lorenzo che è dei medi in una scuola dell'infanzia qua a Treviso, sposato con moglie ovviamente, e da 4 anni do una mano a gestire la scuola della parrocchia di mio figlio, dove andiamo a scuola noi, che è a Santa Maria sul Sile. E niente, quest'anno abbiamo pensato, io con altri, una decina di altri genitori, professionisti, maestri, docenti, insomma un gruppetto che abbiamo fatto su, di provare a dire la nostra in questa grande federazione che è la FISM. A livello provinciale. Tu parti dall'esperienza di una parrocchia che è alla periferia di Treviso, chiaramente poi il panorama generale è molto diversificato. È molto diversificato. Già ogni zona, poi nord, sud, est e ovest della nostra provincia, prendiamo dentro 4 diocesi, 2 principalmente che sono Treviso e Vittorio Veneto, poi c'è dentro Prata, Pordenone e Padova in misura molto minore. Però ogni zona, anche, non dico ogni parrocchia, ma comunque ogni macro zona, ecco, ha le sue caratteristiche, le sue esigenze e ha le sue risposte poi che le scuole riescono a dare alle esigenze delle famiglie, ovviamente. Ecco, e cosa diversa, lo abbiamo sempre raccontato in questi anni, cosa diversa è essere in città dove c'è anche una maggiore presenza di scuole comunali o di scuole statali, altra cosa è nei paesi di campagna dove invece la scuola della parrocchia o delle suore, altrimenti si dica, è l'unica presente. Sì, beh, guarda, qua a Treviso la percentuale è circa il 70%, sono scuole paritarie, quindi le ex parrocchiali per capirsi, e il 30% sono statali, quindi le comunali. Ci sono moltissimi comuni, specialmente nella zona ovest Castelfranco, ma comunque anche nel nord, che c'è solo la paritaria, non c'è l'alternativa di poter scegliere un'eventuale scuola statale o comunque di poter dire scelgo la parrocchiale piuttosto che la comunale, perché non c'è. C'è solamente la statale. Non c'è, con tutte le conseguenze che ben sappiamo che sono prima di tutto finanziarie, esatto. per la famiglia. Dovessi spostare anche, perché se non c'è in parrocchia tua devi andare a scuola vicino. Chiaro, esatto, anche la mobilità è un problema. Ad una famiglia, quindi puoi fare anche il tuo esempio o esempi che conosci, il costo anno, mettiamo proprio il costo finanziario, poi è chiaro che non è solo un costo monetario mandare il bambino a scuola, però partiamo da quello. La retta media, anche sentendo un po' tutta la provincia, è circa sui 150 euro al mese più 100-120 annuali di iscrizione alla scuola per 10 mesi ovviamente, e alcuni poi chiedono un extra per il pulmino, alcuni un altro extra per andare in piscina, per l'attività motoria fuori programma. Però la media è sui 150 euro più 100 di iscrizione. 1600 all'anno, insomma, per anno scolastico. Per l'infanzia. Poi se ci metti dentro il nido vai su a 300-400 euro. Molto più costoso. Sì. Ecco, questo è un po' il panorama, numeri che già conosciamo. Tu hai vinto le elezioni battendo con il tuo staff, il gruppo, il presidente della gestione precedente, Giancarlo Farare, che salutiamo e ringraziamo, certo, per tutto il servizio importante che ha svolto in questi anni. Sono stati anni ben difficili, come sappiamo, non che questi davanti siano facili. Allora, dici due parole sulle vostre linee programmatiche, quindi perché avete vinto, perché avete preso più voti? Beh, innanzitutto anch'io, come dicevi te, mi associo e ringrazio quello che ha fatto Giancarlo, perché l'abbiamo sempre detto in questi ultimi due mesi, chiunque fosse venuto dopo 35 anni di una gestione ottima da parte dell'onorevole Merlin, chiunque fosse venuto si sarebbe trovato davanti una montagna, da una parte o dall'altra la montagna va scalata. Loro hanno preso una direzione molto ben precisa che noi porteremo a compimento con calma in questo nostro mandato, e diamo atto a loro di aver fatto un cammino meritevole. La nostra idea si può riassumere in due parole principalmente, tre diciamo, il dialogo con le scuole, la vicinanza alle scuole e poi la squadra. Da aiutante gestore della mia scuola ci siamo accorti che dove può uno arriva fino a là, dove riesce ad avere una squadra che riesce a sopperire, aiutare, confrontare, dare la classica pacca sulla spalla in certi versi, correggere la direzione in altri versi, o anche logisticamente aiutare nella gestione di una federazione come importante come la FISM, la squadra appunto riesce a essere più completa e più rispondente alle esigenze delle scuole. Per cui abbiamo creato questa squadra di persone, di cui 5 più sottoscritto, è stata poi eletta anche nel consiglio direttivo della FISM, che sistematicamente, che quotidianamente ci aggiorniamo, ci confrontiamo. La nostra idea sarebbe poi estendere questa squadra anche al resto del consiglio direttivo, in modo che ci sia un'unione tra il vecchio, se passi il termine, direttivo e il nuovo, quindi forze nuove in un contesto già rodato, già avviato. Che conosce anche i meccanismi, conosce, esatto, i problemi. E lo storico. E anche lo storico, chiaramente. Adesso poi anche voi inizierete, magari tramite loro, un dialogo anche con le istituzioni, penso a livello regionale, che è quello che si frequenta perché è il più vicino, oltre ai sindaci, di cui magari parliamo dopo, per non arrivare poi a livello ministeriale, ma qui apriamo un mondo che forse in queste settimane è meglio non toccare. Facciamo la prima pausa e poi ancora insieme al nuovo presidente della FISM, Stefano Grando. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Breathe, breathe, believe. dal mondo della scuola. Programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme dal mondo della scuola, stiamo conoscendo, incontrando il neo presidente della FISM di Treviso, Stefano Grando, 38enne, padre di due bambini, una delle quali appunto frequenta la scuola per l'infanzia. Un genitore che dà una mano nelle scuole per l'infanzia, a parte il caso tuo che sei diventato appunto responsabile a livello provinciale, ma generalmente cosa fa un genitore che dà una mano in più oltre a portare il bambino? Ma guarda, c'è una vastità enorme, nel senso, poi dipende anche da quanto tempo riesci tu fisicamente a dedicare. Può essere il semplice, nel caso prossimo nostro, sabato prossimo c'è la vendita del dolce, mia moglie e tutto un gruppo di mamme si stanno trovando, non dico ogni sera, ma comunque con un po' di frequenza, per fare, prepararsi i dolci, per il lavoretto, il ricamo, il quadretto, eccetera. Certo. Per cui sabato e domenica è dedicata a quella. Dopo c'è tutto un lavoro di manutenzione minima da fare nelle scuole, tagliare l'erba, potare gli alberi, dipingere la parete che si è rovinata, cambiare la serranda, un qualcosa che possa. E dopo c'è chi ha delle competenze professionali che può, ovviamente a titolo gratuito o comunque con un rimborso minimo che la scuola possa gestire, perché la scuola purtroppo non hanno più fondi da investire, possa far fronte a delle esigenze anche professionali. Quindi mi viene in mente la manutenzione per mantenimento del CP, del vigile del fuoco, piuttosto che un permesso in comune per qualche lavorazione. Tutte le pratiche burocratiche, esatto, che sono un po' rognose. O anche aspetti legali o commerciali, sì, economico-commerciali, insomma. Ecco, i genitori si mettono a disposizione certamente sì, perché ci sono i loro bambini, ma anche e soprattutto per affrontare la gestione dei bilanci, perché altrimenti appaltare a cooperative o pagare qualcun altro per fare le stesse cose chiaramente manderebbe in fallimento, no? Quasi. Anche perché, anche perché poi dal vescovo nostro in primis, ma poi tutti i parroci la stanno un po' sposando, l'idea che deve passare è che la scuola è vero che viene gestita dal gestore, che nel 90% dei casi è il parroco della parrocchia, però la scuola è della comunità, non è né del gestore, né delle maestre insegnanti, né di chi porta i bambini a scuola, ma è della comunità. Per cui anche se non avessi figli nella mia scuola dovrei comunque essere interessato e coinvolto nella gestione, per cui rientra come aspetto formativo della comunità, della parrocchia, che dà un servizio alle famiglie della parrocchia. Hai già citato i parroci, credo che il rapporto sia strettissimo, ovviamente, perché l'obiettivo è comune. Poi loro hanno giustamente anche i loro impegni, che dovrebbero essere prima di tutto spirituali, poi spesso si trovano a fare i gestori. Conosco il caso e anche l'esperienza del tuo parroco Don Carlo Velludo, che soffre un po' questa situazione. Sì, il loro parroco, la battuta che girava spesso negli ultimi mesi è che quando un parroco va su una nuova parrocchia, la prima cosa che chiede al vescovo è se c'è o non c'è la scuola dell'infanzia, e di conseguenza è contento o meno che ci sia. È contento se non c'è. Diciamo che loro non sono imprenditori, giustamente hanno fatto un cammino di diverso, personale, di formazione diverso, e si trovano a dover gestire una scuola con dipendenti, tasse, rette, vincoli normativi, eccetera, che non è il loro pane quotidiano e lo deve diventare per forza di cose. Anche in questa ottica la presenza di un gruppo di genitori, di un gruppo di professionisti o comunque di un gruppo che possa affiancare e sgravare il parroco in questione è importantissimo in FISM, perché la FISM deve fare il suo ruolo di assistere i gestori in una serie di aspetti legali, normativi, professionali, ma soprattutto anche di quotidianamente il genitore che può essere in aiuto deve dare una mano al parroco a sgravarlo, perché non può un parroco pensare di fare 8 ore al giorno gestione dell'asilo o scuola dell'infanzia e dopo anche fare il parroco e farlo in più e il farlo parroco, anche bene, ovviamente. Chiaramente. Un cenno alle insegnanti, di cui si parla poco, insegnanti che sono anche in questo caso credo al 99,9% donne, sì. O c'è qualche caso di maschio? C'è qualche direttore maschile, ecco. Che sappia io, poi non ho fatto giro tutti quanti, ma non insegnante, no. Ecco, facciamo un cenno a loro, perché chiaramente senza insegnanti poi non si porta avanti l'attività formativa. Allora, purtroppo le nostre insegnanti vivono una situazione contrattuale economica deficitaria, non è colpa loro ovviamente, nel senso che il contratto nazionale FISM è in vigore ma è scaduto nel 2009, per cui si sta andando avanti sulla soglia di un contratto firmato, ufficiale, legale, però in termini di numeri è scaduto dal 2009, quindi sono già 5 anni. Non è adeguato. Esatto, si sta raggiungendo in questi giorni a livello regionale un accordo con i sindacati che completa questa carenza a livello veneto, per cui dovrebbe essere qualcosa che tra oggi e metà aprile dovrebbe essere definita. Va detto che i nostri insegnanti, come penso anche quelli delle statali, per carità, hanno una passione direi sproporzionata rispetto all'introito che hanno mensile di stipendio, e le fa onore questo. Noi come FISM, dicevo prima, c'è l'ottica del dialogo, no? E come dialogo noi intendiamo sia un dialogo tra scuole e scuole della stessa zona, o comunque scuole di FISM, ma soprattutto tra FISM e le scuole. Io mi sono accorto in queste 2-3 settimane che siamo stati eletti noi nel direttivo che c'è proprio sete da parte delle maestre di parlare e confrontarsi. Ci sono 2 appuntamenti settimanali che prevedono dei corsi di formazione in sede nostra. Chi di noi passa in quelle 2 ore in FISM per 1000 motivi, anche sottoscritto, le maestre proprio vengono a parlare, hanno bisogno di parlare, di confrontarsi, di sapere, di avere un riscontro anche tecnico ma anche personale con chi in teoria le dovrebbe rappresentare, dovrebbe non loro personalmente ma comunque rappresentare le scuole e coordinarle. Sia dal punto di vista contrattuale ma anche formativo, quindi come pedagogia e personale, perché poi vengono a chiederci, ci chiedono consigli, ci danno consigli, soprattutto perché chi poi è tutto il giorno con i bambini, esatto, aiuta. E su quello noi poi cerchiamo di tarare i nostri interventi. Dopo l'ultima pausa arriviamo anche alle proposte di legge, ce ne sono diverse sul piatto in questi giorni per affrontare la famosa specificità del Veneto sulle scuole paritarie, tra poco. Dal mondo della scuola. The big lust, bring it into the l'ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola con le scuole per l'infanzia, il neopresidente della FISM di Treviso, Stefano Grando. I nostri ascoltatori sanno bene che ci sono problemi finanziari per le scuole, in questo senso la parità non è stata raggiunta, e soprattutto il Veneto, dove circa due terzi mediamente delle scuole per l'infanzia non sono gestite dallo Stato, dai comuni, ma appunto dalle parrocchie, storicamente anche da più di un secolo. Dal 2001 esiste una legge sulla parità che prevederebbe dei finanziamenti che però nel corso degli anni sono stati via via tagliati. La regione ha compensato per la sua parte in questi anni, molto fanno anche i comuni, perché credo che alcuni comuni, Stefano, alcuni sindaci diano anche di più di quello che in teoria dovrebbero dare, così. Sì, ci sono dei comuni che sono veramente meritevoli, Treviso in primis, perché fa la sua parte, la fa molto molto bene, anzi senza quella probabilmente, non dico metà, però un buon numero delle nostre scuole farebbe molta fatica ad andare avanti. E la media dei comuni nella nostra provincia ha capito l'esigenza delle singole scuole e viene incontro facendo anche sacrifici, facendo anche tagli su realtà che poi deve anche rendere conto alla cittadinanza. Ci sono anche dei comuni purtroppo che sono molto sordi e che anzi cercano di mettere il naso, se mi si passa il concetto, il termine, su realtà perché sono appetibili, perché hanno patrimoni immobiliari, perché hanno, e questi comuni sono la minoranza, per fortuna, però ci sono, e su questo stiamo cercando anche come FISM di avviare un dialogo per capire effettivamente se è una volontà politica o meno o cosa. La maggioranza, ripeto, per fortuna ha ben capito che nel caso che una scuola dovesse andare in crisi, poi il boomerang tornerebbe direttamente su di loro, per cui preferiscono dare un contributo sostanziale piuttosto che gestirla in proprio, che sarebbe molto più costoso, sarebbe molto più difficile. Oltre al problema dell'edificio, tra l'altro poi la questione degli edifici è sempre piuttosto delicata, perché le scuole paritarie hanno delle normative molto più strette, sì, rispetto alle scuole statali. Diciamo che la normativa sostanzialmente è quella, però la scuola statale può puntare sulla deroga, cioè io, lo Stato dice, invece che mettere a posto la scuola perché non è a norma e spendere soldi io Stato per mettere a posto, preferisco dare una deroga nel rispetto minimo ovviamente della tutela dei bambini, però ti consento, chiudo un occhio e ti vengo incontro. Nelle scuole paritarie, che appunto non sono statali, questo non è concesso, per cui il singolo parroco, tra il discorso di prima, che deve spendere 1.000-2.000 euro all'anno per l'adeguamento sistemare, sismico, l'impianto elettrico, deve sistemarlo, e se non lo fa rischia di perdere l'accesso al finanziamento, al contributo nazionale, ecco. Oltre magari a rischiare di vedersi l'edificio dichiarato inagibile, esatto, perché con le ovvie conseguenze. C'è anche questo rischio. C'è appunto questo finanziamento scarso che copre poco, il resto lo devono coprire le famiglie per la spesa annuale. C'è una proposta di legge che è in campo, insomma, qualcosa se n'è parlato, l'avete pensata voi, parallelamente anche l'onorevole Rubinato, sindaco di Roncade, aveva pensato la stessa cosa, la state definendo, ma a grandi linee di cosa si tratta? Beh, allora, per farla brevissima, ci siamo trovati tra presidenti della Regione Veneto di FISM, quindi tra i 6-7 presidenti della Regione Veneto, a Venezia lunedì scorso, l'altra settimana, e abbiamo capito, ci è stato detto l'ennesima volta, ma abbiamo capito finalmente che il problema delle scuole paritarie è preponderante nel Veneto e in Lombardia, per carità, però in Veneto è la regione che ha più il problema rispetto ad altre realtà che invece non hanno questa diversificazione tra statali. Perché la storia è diversa, semplicemente. Per cui ci hanno detto che al ritorno che o il Veneto fa una legge, la fa a sua immagine e somiglianza e la presenta direttamente agli enti governativi, oppure si rischia di entrare ancora in quel ciclo di tam-tam tra realtà locali, territoriali, tra governo, tra regione, provincia, eccetera, che non si riesce poi più a uscirne. Fatalità, qualche giorno prima l'onorevole Rubinato ha presentato una bozza di, sta facendo circolare una bozza di proposta di legge, per cui noi abbiamo detto, senza dover stravolgere tutto, proviamo a dialogare, a prendere, a parlare, e stiamo valutando appunto di comprenderla e integrarla con gli aspetti di FISM, quindi il discorso del voucher, il discorso del costo singolo per singolo bambino, cioè tutti degli aspetti che permetterebbero di sciogliere dei nodi che fino ad oggi, di fatto al 2 aprile del 2014, mancano ancora i soldi del 2013, nelle casse delle nostre scuole. Di conseguenza il parroci di turno hanno dovuto aprire finanziamenti, mutui e tutta è chiaro, con tutti gli interessi, costi, eccetera, del caso. Manca poco più di un mese all'incontro della scuola italiana con Papa Francesco, che è un altro tra i tanti appuntamenti del Papa. Incontra tutti e ovviamente non può incontrare la scuola, lui che poi si è anche occupato di educazione in passato. Una vostra aspettativa su questo? Lui poi incontra, ricordiamo, l'ha ricordato anche il segretario della CEI, incontra tutta la scuola, quindi non è uno spot per la scuola cattolica, perché è tutto, i bambini non hanno colore da questo punto di vista. E deve essere così. Niente, beh, allora noi abbiamo avviato le iscrizioni nostre interne ancora fino all'anno scorso e ci stiamo organizzando tra pullman, aerei, treni, tutta una macchina che si è messa in moto. L'idea personale mia, che vi ho detto di andare ancora prima di capire che avrei la possibilità di essere, certo. Quindi con la mia famiglia, con degli amici, siamo mossi, organizzati e andremo giù. L'idea nostra è di andare a far capire, come se non sapesse, ma comunque far anche vedere che la scuola italiana c'è, è attiva, è viva, funziona bene, però non può rimanere inascoltata. Deve poter essere ascoltata da chi deve ascoltarla, quindi sperando di essere un numero cospicuo, sperando di portare un sorriso dei bambini nostri anche sulle televisioni, anche in Piazza San Pietro, in modo che comunque ci sia modo di capire che la scuola italiana c'è, indipendentemente che sia statale, paritaria, pubblica, privata, eccetera, e deve essere valorizzata, aiutata, perché sulla base della scuola poi si crea il futuro. I bambini, se adesso riesci a investire, a formarli, a educarli in un certo modo e formarli anche come persone, come preparazione culturale, allora forse c'è una speranza di un futuro un pochino più futuristico, ecco, e altrimenti si rischia di tornare in un ciclo vizioso. Qualcuno mi ricordava in un altro dialogo pochi giorni fa che i missionari, quando vanno nel terzo mondo, la prima cosa che costruiscono non è la chiesa ma è la scuola, e questo è significativo. Grazie allora a Stefano Grando, neopresidente della FISM, alla prossima, perché credo ci vedremo, certo, ancora. Certo, volentieri, grazie. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.